La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci arrivati alla puntata natalizia della Rosa Purpurea. Auguri a tutti, come state? Tutto bene? Siamo contenti perché questo è il giorno, anzi sono i giorni del cinema. Sono i giorni in cui il cinema fa il massimo della stagione, fa gola a chi magari ci va solo una volta all'anno in questo periodo. È una fuga magari da qualche pranzo troppo abbondante o magari da qualche parente troppo invadente. Insomma, è sempre un gran bel rifugio per queste giornate. E allora noi vogliamo raccontarvi, come sempre, quella rosa purpurea, tutto il cinema che c'è, quello che c'è nuovo questa settimana, è un po' anche gettare l'occhio a quello che c'è in giro in questi giorni. Lo faremo tra l'altro la prossima puntata, ve lo preannuncio già, con uno speciale dedicato a cosa ci ha lasciato il 2016 del cinema e cosa ci aspetta invece dall'inizio del 2017. Però andiamo con ordine, perché come succede da qualche Natale a questa parte, di proposte ce ne sono tante che sono uscite proprio in questi ultimi giorni, quindi che sono alle loro prime battute con la sala, che completano il quadro, un quadro che era già abbastanza affollato da un paio di film, diciamo così, adventure, che stanno andando molto bene, soprattutto Rogue One, benissimissimo no, ma molto bene in termini di incassi. Ci si aspettava forse una partenza un po' più spinta. 3 milioni in 4 giorni sono un buon risultato, un ottimo risultato, non un risultato superlativo per qualcosa che comunque ha sempre lì quel benedetto brand Star Wars. È partito benino anche Miss Peregrine di Tim Burton, e questa è la proposta fantasy. C'è poi tutto l'aspetto cinepanettonico di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, con tante, direi troppe, uscite anche di scarso livello, anche deludenti, di commedie italiane, appunto, che possono essere ascritte alla categoria del cinepanettone. C'è anche però qualcosa che sta funzionando, che può funzionare, e alcuni di questi film anche d'autore arrivano in sala questa settimana. Boris Sollazzo è già in collegamento con noi, ha il cappello di Babbo Natale in testa, la barba ce l'ha già, e quindi praticamente l'icona è servita. Ciao Boris. Buon cinema a tutti. Lo sapevo che sarebbe andata così. Molto bene Boris, preparatissimo come sempre, non si fa sfuggire nessuna battuta. Boris, dicevamo, però i cinepanettoni quest'anno è tremendi, cioè tremendi in termini di qualità, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ma gli incassi sono destabilizzanti forse per questa categoria del nostro cinema, eh? Ma secondo me, per quanto riguarda soprattutto il cinepanettone Filmauro di Wolfgang De Biasi e in parte quello di Brizzi, siamo in presenza anche di fronte a prodotti che sono anche di una qualità media più alta rispetto al passato. Il problema è che dove c'era da mangiare per due, adesso c'è da mangiare per cinque, e quindi se si vanno a sommare sono esattamente gli stessi incassi dello scorso anno. Il problema è che se lo dividono per cinque, quindi è un disastro per tutti. E che è un disastro che forse era stato anche annunciato, diciamo così. Adesso vediamo come venirne fuori, cominciando con le proposte di questa settimana, Boris, e cominciando da un film che è il classico film da Oscar, potremmo dire, proprio la sua categoria, la grande storia, il grande respiro, la miseria e la nobiltà, tutte dentro un film con gli attori che hanno un nome che risuona in maniera molto forte in locandina. Il film si intitola Lion. Sto iniziando a ricordare una vita che avevo dimenticato. Avevo un'altra famiglia. Devo ritrovare la via di casa. Quanto sei rimasto sul treno? Un paio di giorni. Mi ricordo solo vagamente la stazione. Ci sono migliaia di stazioni in India. Ci vorrebbe una vita per trovare quella giusta. Mi dispiace che non abbiate avuto figli vostri. Avremmo potuto, ma abbiamo scelto di non farlo. Abbiamo scelto te. È una storia davvero pazzesca questa, raccontata in questo film firmato da Garth Davis, la storia vera di un ragazzino, Saru, un bambino indiano che negli anni 80, a 5 anni, per una veramente un gioco del destino pazzesco, finì su un treno e si ritrovò sveglio 1600 km più in là a Calcutta, a 5 anni, da solo, senza saper parlare la lingua di Calcutta, perché in India poi è tutta una babele di lingue. Ecco, è una storia incredibile sulla quale, appunto, poi se volete informarvi di più sulla trama andatevela a vedere, perché non voglio spoilerare troppo, però potete immaginare quale dramma, quale dilemma, quali paure questo bambino abbia abbia vissuto. Gar Davis le ricostruisce in un cast che, dicevo, risuona abbastanza, perché i nomi di Nicole Kidman, di Rooney Mara, di Dev Patel, che ormai è l'attore indiano di riferimento per tutta una serie di film, sono nomi importanti. Boris, mi sembra che soprattutto nella prima parte questo film abbia una capacità di attirare il pubblico, di stare lì sulla sedia, notevole. Poi magari si oscarizza un po' troppo, però è quel colossalone che veramente fa molto Natale. Assolutamente sì. Per la trama vi consiglio anche di leggere Saru e Long Way Home, che è un bellissimo libro e che racconta bene questa storia vera, straziante ma anche esaltante per molti versi. Hai detto bene che è il colossalone che fa molto Natale. A volte critichiamo noi distributori per le finestre che scelgono, come abbiamo fatto poc'anzi. In questo caso non poteva esserci collocazione migliore, perché quello che potremmo definire un plot diabetico, nel senso che insomma rischia di essere troppo dolce, troppo zuccheroso in qualsiasi momento dell'anno, nel Natale, in cui tutti ci sentiamo più buoni o almeno ci illudiamo di essere tali, questo film va a inserirsi perfettamente. Lion è la storia, un romanzo di formazione dei più coinvolgenti che ti possano capitare. Viene diretto bene da Gareth Davis, l'adattamento è molto brillante, chiaramente tutto impostato sul melodramma, su degli schemi classici hollywoodiani, e gode secondo me delle performance di due attori straordinari. Da una parte Dev Patel, che ha dimostrato come Bollywood possa colonizzare Hollywood, perché lui è diventato non solo secondo me la faccia indiana all'estero, ma di fatto un attore internazionale, pur non avendo perso niente della propria identità. E dall'altra parte c'è una Nicole Kidman che dopo l'Oscar si era un po' persa, almeno per quanto riguarda le scelte di copioni, di film, di ruoli, che invece recupera quell'intensità recitativa, interpretativa che le conoscevamo, e davvero dà un'altra marcia al film. E Lion, come dici tu, appunto, nella prima parte, quella in cui si costruisce la storia, in cui serve di più la regia e la scrittura, regge benissimo. Nella seconda parte si prepara a un finale che risulta essere chiaramente prevedibile a chi lo vede, ma che comunque riesce a sostenere la sfida fino alla fine, riesce a tenere avvinghiati gli spettatori alla storia, riesce a mantenere le condotte lacrimali ben lubrificate, e alla fine, insomma, soprattutto a Natale, Lion è il film che possono andare a vedere tutte le famiglie, magari uscendo abbracciati, uscendo sentendosi fortunati per la loro parabola sicuramente meno problematica e complessa di Saru. Alla fine un buon film, di quelli solidi, che probabilmente arriverà all'Oscar e che però noi troviamo sotto l'albero di Natale, ed è un buon regalo. Salve, io sono Sfarmina. Salve, sono Jonah, lei è suo. Ciao, tesoro. Ciao. Questo è per te. Il volo è andato bene? Sì, no. Bene. Io sono su. Lei mamma e io papà. E allora questa era la nostra apertura, il nostro film di Natale, potremmo dire, Lion, con Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara nei nostri cinema. Vedremo quali posizioni riuscirà a scalzare nella classifica degli incassi. Fra poco ci dedichiamo a un'altra attrice importante, anzi qui proprio a un vero e proprio mostro sacro, non ce ne voglia Nicole Kidman, insomma, quando parliamo di Meryl Streep parliamo di un'altra categoria, secondo me, Meryl Streep protagonista, grande protagonista, di un altro melò, ma un melò più musicale, si intitola Florence, ne parliamo fra poco. La rosa purpurea. Meraviglioso. Una parola. Autenticità. Maestro, lei crede che io sia pronta per un concerto. Lei non potrebbe essere più pronta. Coniglietto, manchi dal palcoscenico da troppo tempo. Signor McMoon, lei crede che io sia pronta? Certo. Che personaggio straordinario questo di Florence, Florence Foster Jenkins, per intero il nome, ed è anche il titolo originale del film. Da noi solo Florence, con Mary Streep, Hugh Grant, tanto per dare i nomi più altisonanti del cast, sicuramente i due protagonisti. Una storia che era già stata raccontata, non al cinema, ma era stata già raccontata ampiamente dalla letteratura, dalle cronache. Quella di questa donna che nella New York degli anni 40 aveva una grande passione, quella per l'opera. E quindi fin qui niente di male. Era anche molto molto ricca, facoltosa. Il suo vero problema è che pensava di essere una brava cantante. E questo problema, come dire, non si limitava a riversarlo su chi le stava di fianco, ma lo faceva diventare, come dire, una sorta di ragione di vita. Florence voleva cantare, credeva di saper cantare e ottenne a un certo punto, con tante prove, con maestri bravissimi ma compiacenti, di fare un concerto vero in una dei templi della musica mondiale, la Carnegie Hall. Ovviamente fu un disastro, ma questo lo leggete sulle cronache. Ma il film non analizza tanto questo percorso biografico, come dicevo, già noto, analizza il rapporto verità-menzogna che sta attorno a questo personaggio, interpretato divinamente da Meryl Streep, forse con qualche forzatura caratteristica di caratterizzazione nel canto in certe scene, ma insomma ci sta perfettamente. Straordinario anche al suo fianco Hugh Grant, con quella sua grazia, con quell'eleganza di marito giovane, bello, assolutamente fedifrago, però in questo sta nel non detto, sta negli sguardi che i due si scambiano, la verità del loro amore, perché è amore. E Hugh Grant, il marito, sarà l'unico a dimostrare alla fine davvero di voler bene a questa donna, in mezzo a un mondo che invece la compiace per portarne a casa, diciamo così, i tributi, ma non dirle mai la verità. Boris, io ho trovato un film estremamente divertente e anche estremamente commovente. E mi sembra che per un film di questo livello, con questi attori, per il periodo natalizio, non si possa chiedere di più, no? Sono perfettamente d'accordo. Alla fine del film, fortuna non finisce come nella trama, no? Con un disastro totale, ma anzi, con un tripudio. Verrebbe voglia di applaudire persino quella performance che, come vedete, insomma, non è straordinaria. Come dicevi tu, non è mai stata raccontata al cinema questa storia. Era stata sfiorata un anno fa da Xavier Giannoli, che con Marguerite, senza mai citare la vera Florence, aveva sostanzialmente tratto pesantemente ispirazione dalla sua storia. Giannoli però aveva deciso di impostarla tutta sulla farsa, quasi prendendo le parti della crudeltà della società nei confronti di questa nobildonna, questa signora che in fondo coltivava solo un sogno. Era un film a mio parere incompleto e anche piuttosto crudele, piuttosto facile. Fritz decide invece di fare altro, e lo si capisce immediatamente quando punta la sua macchina da presa non sul inevitabile equivoco di una donna che crede di essere una straordinaria artista e in verità è stonata come una campana, ma sul rapporto, come dicevi tu, di questi due coniugi, che è un amore molto più puro dei fatti che poi vengono consumati all'interno del film. È qualcosa di molto più alto, di molto più profondo. Fa molto sorridere l'idea che un'attrice che ha saputo fare tutto ed è straordinaria, ed è la migliore attrice forse che abbiamo avuto, oso dire, nella storia del cinema, e che ci ha dimostrato di avere grandi doti canore. Penso a Mamma Mia, penso a Dove eravamo rimasti, penso a Into the Woods, penso persino al finale del Cacciatore, debba interpretare per 111 minuti una donna che ci spacca le orecchie con le sue scarse doti vocali. Questa è la dimostrazione di quanto una grande attrice possa andare anche contro se stessa. Il risultato è un'opera al cinema in cui tutti fanno quello che devono fare, in cui tutti raccontano un pezzo di storia in maniera brillante. Io devo dire che noi sappiamo quanto Meryl Streep sia brava, mi piace sottolineare l'eleganza composta, compita di Hugh Grant, che qui non si lascia andare ai suoi vezzi, ma che davvero fa un ruolo d'appoggio meraviglioso, e una scrittura e una regia che in Frears, secondo me, in vecchiaia sta diventando ancora più perfetta, se si può definire così, ancora più cesellata, ci offre veramente una lezione di cinema. E anche una lezione di vita. Non voglio fare il babbo troppo natalizio, ma in fondo ha ragione chi prende in giro questa donna, anche per rabbia contro il potere, o forse questa donna che ha voluto coltivare il sogno contro tutto e contro tutti. Alla fine del film io forse prendo le parti di Florence. Questo è il mio posto preferito al mondo. Mm-hmm. E presto canterò qui. Questo posto è grande, è troppo grande, sai? Non hai forze a sufficienza. E se questo ti uccidesse? Oh, allora morirei felice. La morte è stata la mia compagna fedele per quasi 50 anni. Ho vissuto ogni giorno senza sapere se il mio corpo si sarebbe arreso o se la mia ragione mi avrebbe abbandonata. Ma l'ho sfidata. E l'ho sfidata, l'ho sfidata. E sono ancora qui. E ora ho voglia di cantare qui. In questo passaggio Meryl Streep la spiega bene la sua sensazione. È vero, ha ragione Boris Sollazzo, è un film sul quanto sia importante continuare a inseguire i sogni anche quando magari ci si rende conto che non si possono raggiungere o di non avere magari tutte le carte in regola per poterli raggiungere, però insomma averne sempre uno a disposizione è una roba che, in una parola, ti tiene vivo. Brava, brava Meryl Streep, molto divertente, comunque interessante questo Florence di Stephen Frears. Noi andiamo avanti con un'altra proposta di questa settimana, e non è Natale se non c'è il film Disney, se no che Natale è. Ora, siamo abituati nelle ultime stagioni, i film Disney arrivano in molti, molti momenti diversi. Non parliamo dell'animazione, che ce n'è uno nuovo a settimana, ormai siamo sulla cinquantina di uscite all'anno, e meno male, perché molto spesso, oltre che sono quelli che incassano di più, sono anche molto spesso film molto belli, fatti con una capacità di interessare un pubblico che va oltre i bambini, ormai proverbiale. Però insomma, ecco, dopo il film Disney serve, perché se no non vediamo la stella cometa. E questa volta Disney ci porta, con le sue grandi avventure, proprio agli antipodi, con un film che si intitola Oceania. Le leggende narrano di un'eroina alla ricerca del semidio Maui per salvare, con il suo aiuto, tutti noi. Io non vado in missione con una ragazzina. Questa è la mia canoa e tu navigherai fino a te! Questa non me l'aspettavo. L'oceano è mio amico. Boris, sulla questione tecnica non c'è assolutamente niente da dire, e sul fatto che sia uno spettacolo di grande godibilità ovviamente la gente da casa Disney non si aspetta niente di meno, ed anche questa volta non resterà delusa, perché il film Oceania, che ha la regia di John Masker e di un'altra serie di coregisti, è sicuramente un film così luminoso come quelle terre, come quel sole, come quel mare, come questa ragazzina che ne è protagonista. Sicuramente però, come dire, una eroina, anzi un'antieroina, che va sul solco di una, come dire, di un tracciato, di un sentiero già ben delineato della Disney, da Mulan in poi, no? Delle eroine ribelli che vogliono uscire dal proprio solco. Pensate a Brave, tanto per dirne un'altra recente, che non accettano la propria, come dire, la propria collocazione, e anche il fatto di essere in quella collocazione in quanto donne, in quanto femmine. È un filone che la Disney sta perseguendo con grande tenacia, e in cui questo Oceania si inserisce. Sì, dicevi, non c'è nulla di meno di quello che ci aspettiamo, forse neanche nulla di più. Questo è l'unico piccolo difetto di un'opera cinematografica che, a mio parere, risulta perfettamente rispondente alle esigenze sia di chi l'ha scritto e di chi l'ha diretto, sia degli spettatori. Diciamo che mantiene quello che promette, e non è poco, per carità. Però certo che quando, nel momento in cui eravamo abituati a Disney che ci portava in altri mondi, che ci regalava continue sorprese e ci cresceva anche, ci educava a una nuova forma sentimentale declinata all'animazione, ci rendiamo sempre più conto che questa ormai è un ruolo che è stato dato alla Pixar e alla Disney, rimane il classico. Un classico certo che cerca sempre di rinnovarsi. Penso a tutti i tuoi esempi, aggiungo forse la madre di tutte queste che, eroine che hanno iniziato a chiedere uno spazio diverso da quello precedente, penso a Pocahontas, e vedo in questa Oceania un'equazione assolutamente matematica in cui chiaramente, essendo nel 2016, va un po' più avanti nella consapevolezza anche delle spettatrici che lo vanno a vedere, però sempre con un rischio abbastanza calcolato. Ricordiamo, insomma, anche solo per curiosità, che il vero titolo di questo film è Moana. Il marketing italiano ha deciso, per evitare rimandi alla pornostar Moana Pozzi, tragicamente scomparsa molti anni fa, di utilizzare un più tranquillo e meno evocativo Oceania, e in questo forse però c'è anche una certa mancanza di coraggio, perché probabilmente l'identificazione del titolo poteva darci qualcosa in più, poteva raccontarci qualcosa in più della centralità di questo personaggio femminile. Mi sono divertito, mi sono fatto anche coinvolgere, ho apprezzato gli sforzi anche pedagogici di Oceania. Mi è rimasto qualcosa però di dolce amaro, perché mi sono reso conto di non poter usare la matita blu per segnare degli errori, ma non mi viene neanche un voto più alto del 7. Questa è forse l'unica cosa, è lo svanire del sogno che Disney possa portarci oltre. Ormai i prodotti Disney sono abbastanza standardizzati. Sapete chi è Maui? Il più grande semidio di tutto il Pacifico del Sud. Con il suo magico arpione, egli ha rallentato il sole e tirato fuori le isole dal mare, combattuto mostri! E io posso dirlo? Perché Maui sono io. Ehi, niente? Davvero? Ma un semidio che deve fare di più? C'è da dire che non solo hanno cambiato il titolo, Boris, ma hanno cambiato anche il nome della protagonista. Cioè, non è solo nel titolo che si chiama Oceania, ma la ragazza, la bambina, si chiama Oceania. È come se la chiamassimo Europa, insomma, voglio dire. Anzi, è un nome quasi da dea di altri tempi e di altri mondi. Questa è la proposta Disney di questa stagione. Certo, è stato un anno per la Disney nel quale Zootropolis ha sicuramente rappresentato l'inventiva, diciamo, la volontà di fare qualcosa di nuovo, quello scatto in avanti. Che certo ha avuto il capitolo maggiore degli ultimi anni in Inside Out, senza ombra di dubbio. D'altra parte c'è stato anche il capitolo di Alla ricerca di Dory, no? Che era invece il sequel, secondo me non perfettamente riuscito, ma comunque che ha avuto il suo pubblico. Adesso questo è il film classicamente Disney, proprio tipicamente natalizio. Ci immergeremo in atmosfere meno natalizie, semplicemente per l'autore e gli attori, ma tutto sommato con una riflessione su se stessi. E se non è Natale il momento per riflettere, qual è il momento migliore? Lo faremo fra poco parlando di Patterson di Jim Jarmusch. La rosa purpurea. E allora, ancora insieme, terza parte di questa rosa purpurea con i film di Natale. Vi abbiamo dato tre proposte che sicuramente sono molto natalizie proprio nella loro essenza: Lion, Florence e Oceani. Adesso parliamo di Patterson, che è il ritorno in sala di un autore molto amato dalla critica anche, ma da molto pubblico anche del nostro programma. Stiamo parlando di Jim Jarmusch. Ricordo che quando il film era stato annunciato, perché questo è un film particolare, è il primo film per il cinema prodotto da Amazon, e quindi con anche una storia produttiva importante alle spalle, quando era stato annunciato c'era gente che mi aveva scritto subito: ma quando uscirà, quando lo vedremo? Perché ancora non era certo poi con quale criterio sarebbe stato distribuito. Ebbene, grazie al cielo il film Patterson c'è, e c'è stata anche una scelta sicuramente coraggiosa, quella di proporlo in un periodo come questo, durante le feste di Natale, per una firma, appunto quella di Jim Jarmusch, e un cast che vede Adam Driver ormai star affermata. Diciamo che dopo Kylo Ren e dopo Star Wars c'è stato sicuramente il top della popolarità, ma insomma Adam Driver è un artista che già da qualche anno si fa notare per la sua versatilità, anche per quella faccia, quell'espressione un po' così, diciamo, che gli è veramente tipica, e nel ruolo di protagonista femminile Goss Vité, penso di avere e spero di avere soprattutto recitato bene, Farah Hani, che è la ragazza, appunto la compagna di questo autista di autobus. Patterson non è il nome dell'uomo, Patterson è il luogo in cui questa storia si svolge, nel New Jersey, una cittadina come tante, come molte negli Stati Uniti, con la sua Main Street, con le sue strade laterali, con le casette basse, e con una comunità che vive molto molto pacifica, con una birra la sera in un bar, con l'amore che questi due ragazzi si donano l'un l'altra, marito e moglie, un cane, sembra l'icona della famiglia tipica americana, ma qui il sogno è piuttosto lontano, e per raggiungerlo appunto Patterson, perché vi ho detto che non è il nome, in realtà non è vero, è il nome della città ed è anche il nome del protagonista. Questo è un gioco anche, tra l'altro mi viene in mente che Adam Driver vuol dire autista, e quindi fa l'autista, e quindi c'è un gioco sui doppi da parte di Jim Jarmusch straordinario in questo film. Patterson guida l'autobus e cerca di arrivare a quel momento di armonia con il mondo attraverso la poesia. Scrive poesie su un taccuino, e la poesia è la cifra con cui analizzare questo film. Buongiorno, Donny. Va tutto bene? No, veramente. A mia figlia serve l'apparecchio ai denti. Devo rifare il cambio alla macchina, mia moglie vuole andare in Florida, ma io devo pagare il mutuo. Mio zio dall'India mi chiede soldi per il matrimonio di mia nipote e io ho una strana eruzione sulla schiena. Non mi manca niente. E tu, invece? Tutto ok. Pronto a partire, Patterson? Sì. Quando sei bambino, impari che ci sono tre dimensioni: altezza, larghezza e profondità, come una scatola da scarpe. Più tardi capisci che c'è una quarta dimensione, il tempo. Boris, questo Patterson è un film che, come dire, ti impone una riflessione, un pensiero prima di parlarne, prima di decidere come collocarlo, perché se non lo affronti con le armi della poesia sei un po' spiazzato. Un film nel quale sembra girare tutto a vuoto, cioè la sensazione che se anziché quest'ora e mezza della vita di questi due personaggi, Jarmusch ce n'avesse mostrata un'altra ora e mezza, non sarebbe cambiato nulla. E in realtà è proprio quella la chiave, lo sguardo di Jarmusch, la sua capacità di guardare la società americana come faceva per esempio uno straordinario artista come Edward Hopper con i suoi quadri, no? Cioè di inquadrare l'angolo di un bar, di inquadrare una strada e di raccontarci che quella è l'America, e anche di posizionare l'asticella del sogno americano e di farci capire dov'è oggi. Assolutamente vero. Tra l'altro c'è da dire che il segreto è proprio in quello che raccontavi, no? Sull'ansia e il desiderio dei nostri ascoltatori di vedere il film di Jarmusch, di sapere come sarebbe uscito e quando sarebbe uscito. Questo è un film che va accolto, come tutta l'arte di Jarmusch, che è sostanzialmente un rocker che parla con le armi della poesia. Se si volesse andare oltre lo stereotipo e decide dopo Bob Dylan di dare una Nobel alla letteratura, nonostante sia un regista, io probabilmente lo darei a Jarmusch, perché ha davvero un'incredibile capacità di dare un'immagine alla parola e alla poesia che hanno pochi altri. L'avvicinamento a Hopper, che a me non sarebbe mai venuto in mente, è perfettamente calzante, perché quando vedi un quadro di Hopper hai l'impressione che a un certo punto si animi, che a un certo punto parli di quei personaggi apparentemente normali, apparentemente immobili, che invece sembrano avere dentro il mondo. E Patterson è proprio questo. Ti viene in mente una domanda dopo averlo visto: si può cercare e trovare il senso della vita guidando un autobus? Alla fine Jarmusch ci dice sì, si può fare, lo si può fare semplicemente vivendo la propria vita normale, senza però la superficialità di lasciarla scorrere, di osservarla, di guardarla. E allora anche un bar che apparentemente sembra normale diventa uno dei più belli bar della storia del cinema, perché è meravigliosamente inquadrato, perché è fotografato e dipinto da parte di un grande regista per spettatori sensibili. Non è un film difficile, assolutamente, è un film che ti entra dentro immediatamente, però esattamente come dicevi tu va accolto, cioè lo devi andare a vedere sapendo di andare a vedere un film di Jarmusch, sapendo di andare a vedere il film di un autore che ha una sua grammatica, che è perfettamente leggibile, ma che non è universale. Eppure poi Paterson, la città del New Jersey, diventa una città universale, una sorta di capitale dell'anima. E questa è la poesia e la straordinarietà, secondo me, dell'arte di Jim Jarmusch, farti entrare, anche grazie poi a due bravi attori. Ci sono tanti bravi attori in questo fine settimana, perché Adam Driver, che secondo me non aveva ancora trovato una sua cifra stilistica, qui la trova fortemente. La Farhani è a mio parere una straordinaria interprete, che probabilmente per questioni di provenienza non è ancora stata sfruttata dal cinema mondiale, ma a cui Jarmusch dà uno spessore che forse fino a questo momento aveva trovato solo nel cinema di casa sua o in qualche opera francese. E anche grazie a loro, che diventano veicoli di quest'arte, Paterson diventa un'occasione straordinaria anche per lo spettatore di prendere metaforicamente quell'autobus e di provare a cercare a trovare il senso della vita, oppure semplicemente di imparare a vedere come si fa e provarci. Questa è una ricchezza straordinaria che va ben oltre una bella storia, un bel film, ma diventa un'esperienza. Ecco, Paterson è un'esperienza, una bella esperienza. Non freddo. Sei bellissima. Stavo sognando che eravamo nell'antica Persia e che tu cavalcavi un elefante, un grande elefante d'argento. Un elefante d'argento? Sì. Oh, eri così bello. Ma c'erano gli elefanti nell'antica Persia? No, non credo. Non d'argento, comunque. Paterson di Jim Jarmusch, la proposta d'autore di questo Natale. Molti colleghi la stanno già inserendo, tra l'altro, nella top 10 dei film del 2016, come dire, film che sicuramente contrassegnerà e rimarrà, e forse si presta anche a una visione ulteriore. Boris, grazie per averci raccontato anche questa settimana la tua sui film di Natale, in questo caso, ma insomma della settimana. Noi ti diamo un turno di riposo perché tu possa festeggiare Capodanno con i tuoi cari, e poi ci risentiamo dopo l'Epifania con la prima nuova ondata dei film del 2017. Auguri, Boris. Auguri a te. Allora, al prossimo anno, buone feste e buon cinema. Buon cinema a tutti, come ci usa salutare sempre Boris Sollazzo, perché il cinema è un piacere, e se non è bello, che piacere è? Insomma, così abbiamo messo insieme le grandi pubblicità, i grandi slogan di un tempo, da buona camicia a tutti al caffè. Beh, però insomma, torniamo in noi, perché c'è un altro film di cui voglio parlarvi. Anche questo è d'autore, anche questo ha una sua capacità di raccontare il reale, di raccontare il contemporaneo, arriva dalla Francia e si intitola Il medico di campagna. Solo una decina d'anni fa c'erano ancora due medici qui da noi. Che cosa le è successo? Calma. E oggi Jean-Pierre è rimasto solo. Non è immortale. E dobbiamo guardare al futuro. Si deve vestire un po' meno quando vengo a visitarla. Anche le mutande? No. Un tempo esistevano poche autorità certe in un paese di campagna, e per gli anziani sono rimaste tali: il parroco, la maestra, il farmacista e soprattutto il dottore. Nei centri più piccoli, però, in Francia, come in molte altre parti d'Europa, le campagne si sono svuotate. Niente bambini e niente maestre, restano gli anziani. E cosa fanno senza farmacista e dottore? È il problema che si pone ai pazienti di Jean-Pierre quando a lui viene diagnosticato un tumore. Dovrai sottoporti a delle cure. Bisogna che tu ti faccia sostituire. Lei ha già lavorato in campagna? No. Oh. Ho appena finito il tirocinio. Certo, la laurea in medicina è lunga, ma comunque lei non è un po' troppo fuori corso? Io posso visitare a domicilio e lei in ambulatorio. No, io comincio domattina alle 7. Se proprio ci tiene, mi può accompagnare. Ecco, qui può andare da sola. Preferisco mi visiti il dottore. Da chi l'hai mandata ora? Da mia madre. Porca vacca. Una sostituta la trova, ma il mestiere di medico di campagna non si insegna, si apprende sul campo. Segreti per sopravvivere compresi. Farò in modo di... Sono pazze quelle anatre. Quali anatre? Quelle, non le vede? Mi hanno attaccata. Non sono anatre quelle, sono oche. I maschi sono aggressivi, anche a me è capitato. 22 punti di sutura. L'unica soluzione è umiliarle. Come umiliarle? Lei le prende per il collo e gli mette il becco nel culo. Loro si sentono umiliate e la smettono di rompere. Ma il becco va infilato proprio tutto. Rischioso, ma funziona. È chiaro, ho capito. Nathalie è un'ex infermiera. L'inizio è burrascoso, ma il rapporto fra maestro e allieva si cementa sulle strade fangose delle campagne. Thomas Lilti, medico di formazione, prima che regista e sceneggiatore, aveva già raccontato in Ippocrate la formazione di un medico in corsia. Ora percorre le strade della medicina nella dimenticata provincia francese. È un uomo solo, il suo Jean-Pierre, interpretato dal François Cluzet di Quasi Amici. Un uomo che mescola conoscenze mediche e buonsenso. Una parola giusta è meglio di un medicinale, anche per Marianne Denicourt, che interpreta Nathalie. Ne viene un film umano e solare, ambientato fra vecchi e malati. Buongiorno. Buongiorno, sì, lo so, sono in ritardo. Non saranno le pillole a farla guarire. Io conosco la persona che la farà stare meglio. È lei. Grazie, dottore. Che bello affresco. Mi raccomando, se per caso aveste intenzione di mangiare l'anatra durante il periodo natalizio, Capodanno, così, ecco, non pensate a questo film perché magari vi viene male. Allora, linea alla viabilità e poi torniamo insieme perché abbiamo ancora molto da dare in questa puntata della Rosa Purpurea, a partire dalla versione dal vivo sinfonica di Frozen. E so che con questo titolo molte orecchie di nostre ascoltatrici e soprattutto di piccoli ascoltatori, piccole ascoltatrici, saranno molto molto attente. Ne parliamo fra poco, restate con noi dopo la viabilità. La rosa purpurea. Let it go. Let It Go in una versione, come dire, molto ritmata rispetto a quella originale da parte di Demi Lovato, la canzone simbolo di un film che è diventato un film simbolo di una generazione, anzi di più generazioni per quanto riguarda l'animazione. Abbiamo parlato prima di Disney, beh certo, in mezzo a quello che Disney ci ha portato negli ultimi anni, Frozen è il fenomeno con la I e la F maiuscola. Frozen che presto diventerà, anzi sta diventando, ci stanno lavorando, presto esordirà durante il prossimo anno, durante il 2017, diventerà un musical di Broadway e poi del West End. Frozen, che è stato il più grande incasso per un film musicale della Disney, ha rinnovato, fatto rinascere la passione per i film Disney cantati, tanto che quest'anno arriverà a marzo La Bella e la Bestia versione live action con tutte le canzoni, anche lì sarà sicuramente un bagno di folla. Frozen che diventa anche nelle sue mille sfaccettature un concerto dal vivo, un film concerto potremmo chiamarlo, ovvero proiezione del film con musiche e canto eseguiti dal vivo con orchestra sinfonica e cantanti e le cantanti, anzi la cantante, ce l'abbiamo qui alla Rosa Purpura, è Chiara Galeotti, che saluto. Ciao Chiara. Ciao, ciao a tutti. Grazie per essere qui, ciao, con noi. Grazie a voi. Buon Natale anche a te. E allora, parliamo di questa esperienza. Il film correrà sul grande schermo come sempre. Le parole saranno quelle di Elsa, Anna, Olaf e di tutti i personaggi di Frozen. Ma quando arriva il momento della musica e del canto, venite fuori voi. Viene fuori questa orchestra sinfonica, viene fuori la voce delle cantanti. Esatto, esattamente così, hai descritto benissimo quello che succederà, quindi ci tengo a precisare una cosa innanzitutto, che questo Disney Concert Frozen è una novità assoluta per l'Italia e che questo spettacolo ha già emozionato tantissime persone in tutto il mondo, da Londra a Monaco, però in Italia ecco, è proprio la primissima volta in assoluto. Ed è uno spettacolo molto coinvolgente, tra l'altro, adatto proprio alle famiglie, quindi non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Ma ecco. Si può cantare? Cioè, se i bambini cantano mentre tu... Ma se i bambini va cantano, bene, no? Io impazzisco! È certo! Anzi, quindi non una, vedo l'ora! È una sorta di audience participation, diciamo, nella quale esatto. È importante esatto. Anche... Anzi, si vestano anche le bambine da Elsa, sì, fa niente, vabbè, va bene tutto, insomma, vale va tutto. Senti, va ricordiamo le date, allora, che è importante. Sì. Si esordisce allora, a Roma il 29 di dicembre e poi raccontaci un esatto. Po' il tour. Allora partiamo da Roma, come hai detto tu, il 29 e il 30 di dicembre all'Auditorium Parco della Musica. Arriviamo poi il 2 di gennaio a Napoli al Teatro Palapartenope, 3 e 4 gennaio a Milano, Teatro Dal Verme, e concludiamo il 7 e l'8 gennaio a Torino al Teatro Alfieri. E quindi queste le città fortunate di questa prima sì, tranche, esatto. Insomma Roma, Milano, esatto. Napoli, Torino, per andare a vedere Frozen in concert. Senti Chiara, tu sei una cantante, il tuo mestiere è quello, canzoni della area pop, diciamo così. Cosa rappresenta e cosa ha rappresentato anche per te questo film 3 anni fa? Te ne sei innamorata subito? Quale tipo di asperità rappresenta nel canto la parte che tu fai? Ma intanto è un film bellissimo che io non ho visto subito quando è uscito nel 2013 a dicembre, ma ho visto un pochino più tardi, però devo dire sinceramente che me ne sono innamorata subito perché a mio parere le musiche sono bellissime, le canzoni anche, quindi per me è un onore grandissimo poter dare voce poi alle canzoni di Elsa, che è la protagonista principale. Non è semplice, però cercherò di mettercela tutta e di fare del mio meglio e di far divertire tutto il pubblico, ecco. L'appuntamento è da Roma il 29 di dicembre e poi a seguire Napoli, Milano e Torino fino all'8 gennaio. Andatevi a cercare su internet tutte le date, trovate tutto, i biglietti in vendita eccetera, però è davvero uno spettacolo da pelle d'oca e quindi brava Chiara Galeotti, in bocca al lupo per questa grazie, performance. Crepi. Grazie, ciao. E allora Frozen in concerto, insomma abbiamo cercato di essere natalizi fino in fondo. Adesso, siccome a Natale ci sono i regali, chiaramente dobbiamo fare l'ultimo regalo di quest'anno. Poi il nostro game ritorna, non preoccupatevi, però insomma adesso siamo in atmosfera di fermo biologico per il periodo natalizio. Noi la scorsa settimana avevamo giocato con questo quiz. E come conquistiamo la cittadella? Supponendo che ci arriviamo vivi. Se blocchiamo il passo, non è difficile. Lui non ha che cuccioli di guerra e figli di guerra malati. E allora, avevamo giocato con una saga. La domanda, devo dire, è stata piuttosto difficile, almeno stando alle risposte vostre, era proprio di indovinare il titolo dei due film e di capire di quale saga si parlasse. Insomma, si parlava di Mad Max, questo era un estratto anche di Fury Road. Ha indovinato e quindi si porta a casa il cofanetto con le due versioni, il primo Mad Max e appunto Fury Road, Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli. Il nostro regalo di Natale è per lui. A questo punto colleghiamoci con Giulio San Giorgio, con Phil TV, perché... ci facciamo raccontare un pochino cosa c'è dentro questo cofanetto. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Il cofanetto si chiama I Got Ten Collection, un cofanetto targato Warner Bros. E propone la saga di Mad Max in alta definizione. E contiene anche appunto una versione inedita in bianco e nero di Mad Max Fury Road, l'ultimo film, l'ultimo straordinario capitolo della saga. Non è una semplice conversione in bianco e nero della pellicola originale, ma proprio una versione rimaneggiata dal cineasta australiano. Oltre ai 4 film della saga in alta definizione con audio e video restaurati e a questa Black and Chrome di Mad Max Fury Road, quindi questa nuova versione molto particolare del film, questo cofanetto contiene anche un DVD con l'inedito Madness of Max, che è un documentario di 2 ore e mezza addirittura, che ci porta dietro le quinte della pellicola che ha dato inizio alla saga, quindi del primo Mad Max. È un cofanetto questo veramente imperdibile per i collezionisti. Ecco Giulio, i giorni natalizi, passando alle segnalazioni TV, sono sempre forieri di grandi proposte cinematografiche, anche molto ricorrenti, se vogliamo. Una poltrona per due, per esempio, c'è gente che l'ha visto 20 volte sempre durante le feste di Natale. Però questa volta abbiamo voluto mettere insieme un nucleo di film appartenenti un po' allo stesso genere. Stiamo parlando della sophisticated comedy, no? La commedia brillante americana degli anni 50-60 della Golden Age di hollywoodiana, che tra lunedì 26 e martedì 27 ha ben 4 titoli, che vanno da Sabrina, Gli uomini preferiscono le bionde, da Come sposare un milionario a Susanna. Allora Raccogliamoli insieme. Il periodo di feste è un periodo di buon cibo, ma anche per le reti televisive di buon cinema. Partiamo lunedì con Sabrina su Rete 4 alle 16:30, una commedia sofisticata con Bogart e la Ebumon, un grande film di un grande regista, Billy Wilder. Poi proseguiamo lunedì con Gli uomini preferiscono delle bionde sulla 7 alle 21:10, un'altra grandissima commedia piena di dialoghi scintillanti, questa volta girata da un altro grande regista del cinema classico hollywoodiano che si chiama Howard Hawks. Sempre lunedì alle 23, sempre sulla 7, Come sposare un milionario, ovvero Come lanciare il CinemaScope con il sex appeal, perché fu il secondo film girato in questo formato. Ci sono Le gambe di Betty Grable, Lo sguardo di Oron Becal e ancora un sex symbol totale, Marilyn Monroe. Chiudiamo martedì con Susanna su Rai 5 alle 21:15, ancora un film di Howard Hawks e ancora Catherine Hepburn, testarda e adorabile ereditiera, con Cary Grant, paleontologo in cerca di finanziamenti ma non di fidanzamenti, per uno dei capolavori della commedia americana, dove ci sono tutti i meccanismi dei gag, della risata. Cary Grant e Catherine Hepburn sono veramente in uno stato di grazia, il film è veramente inimitabile. Grazie Giulio, ancora auguri a te e a tutti gli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima e buone feste a tutti. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, come ci dice la nostra sigla, e allora gli auguri di Natale ce li siamo già fatti, quelli per l'anno nuovo ce li facciamo la settimana prossima, perché il 31 saremo qui in onda con il meglio del 2016 e gli auspici del 2017 insieme a Luisa Morandini, curatrice dell'omonimo dizionario del cinema. A me non resta che augurarvi un buon ascolto qui su Radio 24 e darvi appuntamento fra 7 giorni. Buon Natale ancora.